l'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Un saluto da Deborah Rosciani e da Mauro Meazza. Questa è la prima puntata del nostro alfabeto del risparmio. Benvenuti. È un podcast originale a cura di Radio 24 in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ma è soprattutto un percorso in 8 tappe che speriamo vogliate intraprendere in nostra compagnia. Sì, 8 puntate che ci porteranno nel cuore di ottobre 2020, mese dell'educazione finanziaria. Per il terzo anno consecutivo, infatti, si concentrano nel mese di ottobre molte iniziative che puntano ad accrescere le conoscenze di base sulla gestione, sulla programmazione delle nostre risorse finanziarie, quelle personali, quelle familiari. Iniziative promosse su tutto il territorio nazionale e sostenute dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Quello del 2020, lo sappiamo bene, non è un ottobre come tanti. Siamo in un anno difficile che ci vede tutti impegnati nel reagire alla crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19 e lo speriamo tutti in una graduale ma costante ripresa della normalità. Non a caso il sottotitolo di questo podcast è Le scelte per ripartire. Questa edizione del mese darà un particolare rilievo alle scelte finanziarie ai tempi del Covid-19 e anche noi ci concentreremo quindi sui passi da compiere in questa fase così delicata, una fase che richiede a molti, anche sul fronte della finanza personale, la capacità di reagire a una situazione di crisi e di emergenza. Ma torniamo all'alfabeto. E già, perché ci impegneremo davvero a ripassare insieme l'alfabeto del risparmio per colmare le piccole e grandi lacune con cui ci si scontra ogni giorno quando si tratta di gestire il nostro denaro. Per gli ingredienti di questa prima puntata abbiamo scelto di seguire fedelmente l'ordine alfabetico, quindi ABC. A come la voce autorevole che ascolteremo, A di Anna Maria Lusardi, che dirige il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Con lei faremo il punto sul lavoro del Comitato e sulle riflessioni che lo guidano. Daremo grande spazio alla B di buone pratiche, i passi da seguire fondamentali di cui parlavamo. E poi la C, appunto, come Comitato, per raccontare a tutti voi che ci ascoltate cos'è e di cosa si occupa questo organismo. Partiamo proprio da qui, ascoltiamo la scheda. C come Comitato. Istituito nel 2017, il Comitato, che ha il compito di migliorare la nostra preparazione in materia economica, ha un mandato molto ampio. All'indirizzo quellocheconta.gov.it, il portale che fa da collettore delle iniziative e da punto di diffusione di materiali formativi e informativi, si legge infatti che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali. La professoressa Anna Maria Lusardi, docente alla George Washington University Business School, è il direttore del Comitato, al cui vertice siedono 11 componenti, tutti esperti del settore e provenienti da Banca d'Italia, Consob, Albo dei Consulenti Finanziari, IVAS, Covip, insieme a rappresentanti dei ministeri e del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. Dal 2018 il Comitato monitora e coordina le iniziative di educazione finanziaria che si svolgono dal 1 al 31 ottobre, divenuto ormai stabilmente il mese dell'educazione finanziaria. Quest'anno una particolare attenzione sarà dedicata alle scelte finanziarie ai tempi del Covid e all'educazione previdenziale. La settimana dal 26 al 31 sarà dedicata proprio alle iniziative in materia pensionistica. Gli eventi del mese dell'educazione finanziaria sono gratuiti e senza scopo di lucro e possono essere organizzati da enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni e qualsiasi organizzazione possono proporre eventi di educazione finanziaria coordinandosi con il Comitato. Per segnalare le iniziative e per conoscere quali eventi si svolgono sul territorio, l'indirizzo è sempre quello che conta.gov.it. Un anno difficile e impegnativo questo 2020, lo dicevamo, anche quindi per il Comitato di cui ci ha parlato la nostra scheda. Anna Maria Lusardi, che lo dirige, ci ha raccontato su cosa si è concentrato il lavoro di questi mesi. Sentiamo. Sono stati sicuramente mesi molto difficili,